YouTube Social Village di Marta Cagnola. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, buonasera, non so mai cosa dire. A quest'ora sono le 16 e 7 minuti ed è il momento di iniziare il nostro sabato pomeriggio in diretta con Radio 24, due ore quelle di Radio Tube Social Village e di Radio Tube Social Network, per stare insieme per parlare nella prima ora di spettacoli, un po' di musica e un bel po' di bella televisione. Ne parleremo, ma ne parleremo anche nella seconda ora, quella di Radio Tube Social Network, quella dell'attualità della rete e dalla rete. Anche lì torneremo a parlare di televisione perché sono successe cose molto importanti questa settimana e inevitabilmente nella situazione in cui stiamo vivendo molto dell'intrattenimento passa proprio per quello che un tempo si chiamava il piccolo schermo. Non so se si può ancora dire così perché i device da cui, su cui guardiamo la televisione sono veramente tanti. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, poi ci sono i miei social che sono chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Cominciamo con una serie tv. Io sono molto curiosa di vederla. Tarifa, la punta estrema dell'Europa. Davanti a me ho l'Africa e l'Oceano Atlantico. Buenos días, meccanico. Hai dormito bene? Oggi è il gran giorno. Inizia il viaggio che ci renderà liberi. La parola chiave è amistà. Amicizia, meccanico. Poteva essere il giorno più importante della mia vita. Il giorno in cui il mio incubo sarebbe dovuto finalmente finire. Il giorno in cui sarei potuto tornare ad essere un uomo libero. Ma non è andata così. Non mi portate. Perché oggi è il giorno della mia condanna a morte. Da adesso sono un bersaglio visibile a tutti. E non posso più fidarmi di nessuno. Gli orologi del diavolo sta per arrivare su Rai 1 dal 2 di novembre, questa serie molto importante, regia di Alessandro Angelini, una firma anche questa davvero notevole, con Claudia Pandolfi, con Alvaro Cervantes, con Nicole Grimaudo, con Fabrizio Ferracane e con Giuseppe Fiorello. Buonasera Giuseppe. Buonasera, come bentornato. Va? Come va? Va che noi ci attacchiamo alla televisione adesso, perché è un po' il nostro, insieme alla radio, è un po' il nostro, la nostra finestra sul mondo in questi tempi difficili. Cosa ne pensi? Purtroppo sì. Penso che avrei preferito, anche a discapito della mia serie, stare fuori, sinceramente. Alla vita quella di prima, come si viveva prima, con le nostre libertà, con il nostro respirare tranquillamente l'aria, con il nostro poter stare con gli altri, questo è il sentimento che provo, il sentimento di speranza che tutto possa tornare molto molto presto a come eravamo, insomma, ecco, questo è il sentimento. Concordo. Siamo a casa, stiamo attenti, usiamo le mascherine perché purtroppo i dati non sono rassicuranti, ma tutto questo passerà e io credo proprio che passerà, lo dicono anche gli esperti, ci vuole molta pazienza. Sì, molta dobbiamo collaborare, è inutile mettersi di traverso perché ne facciamo le spese noi stessi, quindi è un autoflagello. Sì, non ha senso, hai ragione. La protesta è sacrosanta, è giusta, ci si può lamentare, anch'io avevo trovato in qualche misura, diciamo, con dispiacere un po' ingiusto chiudere teatri e cinema, poi abbiamo riflettuto insieme a tutta l'associazione che nasce proprio il lockdown scorso, si chiama Unita, Unita. E raccoglie tantissime attrici, tantissimi attori, e sta nascendo una realtà con uno sguardo verso il futuro per il nostro lavoro, il nostro comparto, e ci siamo detti anche questo, cioè l'impulso avevamo anche noi, in qualche misura tra noi, e pacificamente protestato queste decisioni, ma poi abbiamo capito che la cosa più saggia è collaborare, aspettare, capire, e intanto in questo tempo ci stiamo dedicando a uno sguardo futuro nuovo e moderno del nostro settore, del nostro mestiere e del nostro lavoro. Hai ragione, prendiamo un po' la rincorsa. Intanto, Giuseppe, noi alla radio facciamo quello che possiamo per stare vicino, per informare, per intrattenere, per tenere compagnia a chi ancora si muove, ancora si può muovere, chi invece deve già stare a casa e chissà cosa succederà poi nei prossimi periodi. La televisione fa tantissimo, sta facendo tantissimo. Noi non vediamo l'ora di vedere questa serie, 4 serate, da lunedì 2 novembre su Rai 1, una serie tratta già da un libro importante e una storia vera? Sì, la serie tratta dal libro omonimo, appunto, Gli orologi del diavolo. La serie è una storia vera, si ispira a un fatto realmente accaduto, reale, è quella che ormai molti conoscono, devo dire, è appunto la storia di Gianni Franciosi nella realtà. Poi noi abbiamo cambiato un po' i nomi dei personaggi, infatti nella serie mi chiamo Marco Merani. È la storia di un uomo, di un ragazzo che si trova a dover fare i conti col suo stesso talento, in qualche modo il suo talento gli si rivolta contro, perché lui è un prescelto, è scelto da questo gruppo di narcotrafficanti che si presentano come dei semplici clienti proprio perché lui è particolarmente talentuoso Nella modifica dei motori, renderli veloci, prestanti, quelli che sono appunto gommoni, motoscafi, offshore, tutto quel mondo lì, insomma. Per questo è la loro, diciamo, ideale preda. Lui non si rende conto di tutto quello che sta facendo e per chi lo sta facendo, perché è proprio evidente che si tratta di clienti normalissimi, pagano tranquillamente, gli fanno anche le fatture che furono all'epoca poi dimostrate, tutta un'apparenza molto normale e tranquilla, quando poi accade un fatto che non svegliamo subito, perché accade proprio la prima serata. Lunedì sera accade una cosa che lo in qualche modo lo insospettisce, lo fa spaventare. Si confida con un amico poliziotto, il poliziotto capisce, indaga e scopre che lui per puro caso era entrato in un ingranaggio molto grande. Quindi è proprio la storia di un granello di sabbia che va a finire dentro un ingranaggio più grande e immenso di lui. E da qui e poi si scaturisce tutta la storia e tutto quello che accadrà, perché poi cominciano a cadere i pezzi della sua vita privata, si sgretola tutto l'impianto affettivo della sua vita, i suoi amori, sua moglie, i figli, padre, un disastro di vita nonostante un gesto civile straordinario. Infatti, ecco, Gianni Franciosi diventa testimone di giustizia. Gesto civile, però c'è una cosa, un aspetto particolare che mi interessa molto di questa fiction, oltre a questo aspetto appunto che è molto importante. È una fiction di grande azione, di grande adrenalina, sì. Una fiction molto internazionale in questo. Sì, è proprio così. Cioè, diciamo che non ha, è internazionale, nel senso vero del termine, perché è una coproduzione con la Spagna, con Mediaset Spagna e la RAI italiana, quindi c'è un cast straordinario di attori spagnoli, Álvaro Cervantes in testa, che è una grande star della televisione spagnola e del cinema spagnolo. È stato un bellissimo rapporto il nostro, peraltro, collaborativo, una bella amicizia è nata sul set con Álvaro e tutti gli altri interpreti di questa storia. Un cast italiano di altissimo livello, da Fabrizio Ferracane, Marco Leonardi, Roberto Nobile nel ruolo di mio padre, Gia Dall'Orto, mia figlia, e poi le bravissime Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo, che saranno le mie compagne di avventura in questa bellissima e adrenalinica storia. Non ha nulla da invidiare, infatti, alle grandi produzioni internazionali, né da un punto di vista produttivo, tantomeno da quello, diciamo, narrativo, ecco. Giuseppe, non vedo l'ora. Allora, io sono lì sul divano. Grazie. Con la copertina, con la tisanina o qualcosa del genere, non dico qualcosa. A un certo punto ti immagino con la copertina che comincia a mordere la copertina. ecco. La tensione e l'emozione sale di puntata in puntata. Ne abbiamo bisogno di un po' di intrattenimento, un po' di distrazione, anche con appunto distrazione di qualità, diciamo così, in questi momenti difficili in cui siamo tutti chiusi in casa per forza in attesa di tempi migliori. Grazie a Giuseppe Fiorello. Allora, Gli orologi del diavolo da lunedì sera per 4 serate su Rai 1. Grazie per essere stato con noi. A presto, grazie Giuseppe. A te, grazie. Grazie a tutti, ciao. Noi ci risentiamo tra poco, la viabilità e poi saremo saremo ancora insieme per parlare, vabbè, tra musica, cinema, televisione, tutto insieme tra poco. Radio Tube Social Village. Pensiero e azione. C'è chi pensa, studia e poi agisce. E c'è chi agisce, poi pensa e impara. Io sono della seconda razza. Sono per i tuffi di pancia, per l'azione prima del pensiero. Sono per l'esperienza pura, quella che nasce da una programmazione sommaria, dell'anarchia sentimentale, dal primato dell'imprevisto. Anche il viaggio lo affrontò così, come l'amore. Vento di maestra. Ha esordito alla Festa del Cinema di Roma, poi il debutto su Sky Arte, ovviamente è ancora disponibile sul canale, ma anche su Sky Go. È un documentario davvero particolare, pieno di musica, pieno di amici, si intitola Porto Rubino. Benvenuto a Renzo Rubino. Grazie Marta, grazie. Grazie Renzo di essere con noi. Alla Festa del Cinema di Roma e poi su Sky Arte, appunto, il tuo Porto Rubino ci ha fatto un po' sognare, non solo per la musica ottima tua e dei tuoi amici, ma anche perché ci ha fatto fare un salto indietro a un tempo in cui si potevano fare dei concerti, anche se con un po' di misure di sicurezza, insomma in maniera più misurata, più controllata. C'era il sole, avevamo molte speranze. L'estate scorsa è veramente un tuffo al cuore questo Porto Rubino, Renzo? Sì, avevamo voglia, con tutta una squadra di persone, di come dire, accendere comunque un faro verso la problematica dell'inquinamento marino, farlo in maniera leggera e parlare di un altro argomento per un attimo, no? Quindi sviare l'attenzione verso un'altra cosa. E nonostante il periodo che stiamo vivendo, per l'appunto, non c'è nessun accenno all'interno del film del Covid e di tutto il resto, ma bensì è una storia un po' onirica, un po' leggera, fatta con tanti protagonisti, artisti, amici che hanno contribuito alla causa. È un documentario nato quest'estate quando le cose si erano un pochino riaperte. Mi racconti la nascita di questa idea, di questa avventura, Renzo? Allora, non volevo fare un film o un documentario. Porto Rubino, come l'anno scorso, doveva semplicemente essere un festival musicale sulla protezione del mare, con questa imbarcazione messa in diversi porti. Semplicemente avrei fatto le canzoni dedicate al mare con alcuni ospiti. Quando, insomma, a marzo la situazione è degenerata e tutti gli altri miei progetti artistici venivano rimandati, dentro di me è rimasta comunque un'idea di speranza nei confronti di questo progetto, perché, non lo so, avevo la sensazione che si poteva fare. E infatti poi, grazie a Sky Arte, insomma, e agli amici che mi hanno aiutato a fare questa cosa, come Stefano Senardi, ci è venuto in mente di fare un documentario, no? Quindi di girare tutta una storia che è stata scritta in precedenza, ma che poi ha una fonte di verità molto forte, perché ovviamente è stata vissuta per davvero, in maniera anche improvvisata. E poi siamo anche riusciti a fare qualche concerto quest'estate, e quella cosa non ce l'aspettavamo. Quindi devo dire che l'ho voluto fortemente. Ho preso il mio gozzo, che è una barca di legno, sono partito da Polignano a Mare e sono arrivato a Taranto alla ricerca del mostro marino, come ho detto prima, l'inquinamento. E tanti amici artisti mi hanno aiutato. Dunque tu sei un uomo di mare, vero? Perché ti abbiamo visto nel documentario, vabbè, sei pugliese, però sei davvero un uomo di mare. Sì, ho un legame molto forte e quasi zen con l'acqua. Sarà perché sono del segno dei pesci e non c'entra niente, non lo so, però da quando ero bambino vivevo il mio rapporto con l'estate in unione con l'acqua. Arrivavo al mare, mi tuffavo e uscivo solo poco prima di andare via. E pensa che da ragazzino pescavo anche, ma con l'andare del tempo soffrivo anche di questa cosa. Quindi oggi mi piace anche sia navigare, però anche per lustrare, scoprire, ma senza pescare, perché è come se fosse una sorta di famiglia, no? Quella formata dai pesci, dalle conchiglie, eccetera. Alla tua Puglia hai fatto allo stesso tempo un grande regalo, mostrando dei luoghi straordinari, ma hai anche reso giustizia parlando della caccia a questo mostro che è l'inquinamento, ma non solo. Mi racconti questo aspetto? Sì, ci sono effettivamente diversi mostri da combattere, anche qui in Puglia, che poi alla fine, come dire, come se fosse un unico mostro, che è il mostro della volgarità e proprio il male, no? Antonio Diodato, che nel film è il guerriero del Mar Ionio, è da anni in lotta con questo mostro fumante che si trova a Taranto. E l'1 maggio è insomma una forte rappresentazione di lotta, e lui ovviamente parla di quello che vive ogni giorno ormai, quindi tutte e due le cose sono la faccia di una stessa medaglia, cioè proprio dell'incuranza nei confronti di un bene primordiale, fondamentale, importante. È bello vedere negli artisti pugliesi, ma non solo negli artisti pugliesi, quando tornano nella loro terra comincia ad aleggiare lo spirito di Domenico Modugno. Sì, Domenico Modugno è proprio una sorta di ormai santo reale per i musicisti pugliesi, no? Non si può non parlare di lui, soprattutto se si passa da Polignano a Mare, è proprio inevitabile. Tutte le persone hanno del luogo, hanno anche un aneddoto, le persone più grandi legate a Domenico Modugno, e magari hanno incontrato, o che magari, che ne so, con cui hanno trascorso del tempo, quindi era impensabile non menzionarlo. Poi io credo che, secondo me, se andiamo a prendere artisticamente a livello regionale tanti artisti, scopriremmo che gli artisti pugliesi comunque hanno una derivazione armonica, melodica, che deriva un po' anche dal mondo di Domenico Modugno, quindi della melodia, no? Se invece Se penso a Milano, penso a un'altra cosa, penso all'underground, penso al rap, all'hip hop e a come si è sviluppato negli ultimi anni. Il documentario si apre con te che proclami di voler sfidare l'anno più bisestile che mai, e devo dirti che ci fa un po' impressione, ci mette tanta nostalgia vedere queste persone che poi eravamo noi, che potevamo ancora andare ai concerti, anche se in maniera ridotta, con grandi misure di sicurezza, un po' sottotono, ma si poteva ancora, non immaginavamo che potesse poi succedere quello che è successo ora. Sì, è veramente un grande dispiacere per come si è evoluta la situazione. Quest'estate noi abbiamo fatto un grande sacrificio anche economico per mantenere i protocolli, per gestire i protocolli in un certo modo, e quindi con la sicurezza e quindi con i controlli agli ingressi. Diciamo che secondo me tutto il mondo dell'arte ha avuto un grandissimo rispetto nei confronti di tutto quanto, anche delle istituzioni, perché anche quando si è contestato lo si è fatto in maniera sobria, e quindi oggi vedere chiusi i cinema, i teatri, non ti nascondo, Marta, che un po' mi fa male, e lo trovo ingiusto, no? Perché non c'è, non, non c'è una regolamentazione chiara e giusta nei confronti di tutti i settori, no? Un settore che è stato super attento, non a caso si parla di un unico contagio rispetto a tutti gli spettacoli che sono stati fatti fino ad oggi. Quindi sì, mi dispiace molto e non credo sia la soluzione giusta, e quindi speriamo si possa ritornare presto a far musica o comunque arte in un certo modo. In tanti, prima che iniziasse la pandemia, avevamo progetti di libri, documentari, dischi. Tu cosa avresti voglia di riprendere in mano, di ricominciare quando tutto questo guaio sarà finito? Guarda Marta, io prima di a marzo non pensavo a Porto Rubino come una delle cose estremamente importanti da fare, non te lo nascondo, poi si è sviluppata e è diventata una cosa molto importante per me, ma non era la mia priorità. Stavo lavorando a un progetto molto grosso che sarebbe stato poi il mio disco, ormai da qualche anno, perché qualche tempo fa mi è stato chiesto di scrivere un'opera classica. E quindi ho passato gli ultimi 3-4 anni a studiare, ricercare, condividere con persone del mondo dell'opera delle cose che non avevo mai fatto prima. Ho scritto pensando in un'altra maniera, mi sono sentito estremamente libero e ho tirato fuori una cosa che non avevo mai fatto prima e che sarebbe diventata anche il mio disco e che avrebbe avuto anche collaborazioni importanti e palcoscenici importanti. Poi è saltato tutto e quindi la mia speranza è di riprendere al più presto questo progetto, ma non ti nascondo anche che ho fatto tanto, cioè ho prodotto, mi sono tuffato in tante altre cose perché non volevo star fermo e quindi in questo polverone qualcosa succederà. Spero. Ma col cinema ci hai preso gusto? Perché hai passeggiato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, adesso il film su Sky Arte. Mi piace, è bello, mi piace molto, è molto molto bello, ammetto. È strano perché di solito quando insomma non mi è mai capitato di andare in un teatro e di essere spettatore, cioè di essere il festeggiato, non so come dire, però senza di fatto fare musica o fare qualcosa di artistico, quindi è veramente strano, però è molto soddisfacente. E non mi dispiacerebbe scrivere musica per il cinema, non ti nascondo, non è detto che per esempio questo progetto possa continuare, no, in qualche modo ad avere una visione cinematografica. Allora vedi quante porte comunque ci ha aperto questo momento di crisi, ma speriamo sì, davvero che tutto possa ricominciare, non come prima ma meglio di prima. Io ti dico solo stai bene, sì, riguardati. Grazie. Fai il bravo e poi ti dico che non vedo l'ora di rivederti, di riabbracciarti, di sentire tue cose nuove. Io sono curioso di farti ascoltare, Marta, veramente. Ah, che bello. Renzo, un abbraccio grande. Porto Rubino su Sky Arte, il documentario della splendida estate di Renzo Rubino, per sognare un po' ancora, per sentire della musica splendida. A presto, Renzo. Ciao Marta, grazie. Ciao, ciao, ciao. Radio Tube Social Village. Abbiamo parlato di televisione nella prima ora del nostro RadioTube Social Village, collegandoci con Giuseppe Fiorello, che da lunedì sera sarà su Rai 1 con gli Orologi del Diavolo. Abbiamo bisogno di un po' di televisione, oltre che della radio, in questo periodo in cui la sera stiamo chiusi in casa. E poi abbiamo parlato di questo progetto che sta tra musica, TV, perché su Sky Arte, cinema, perché è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, Porto Rubino, un'avventura di Renzo Rubino, che è sempre un artista da tenere d'occhio, oltre che una bella persona. Torniamo a parlare di musica ancora dopo la pausa, dai, facciamolo e iniziamo così. E non esiste casa che non sia il tuo nome, e non esiste un'ombra nelle tue parole, e non esiste niente oltre i miei 5 sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro, e non c'è più nient'altro da cercare in giro, e ho il desiderio, l'impressione ormai di perdermi. Se chiudo gli occhi mi dimentico di me, mi presento così, così come mi vedi, spoglio di vanità, non nascondo segreti, io mi adatto se vuoi, quando si parla d'amore, io do il meglio di me, io mi faccio apprezzare. L'amore sublime. Abbiamo parlato con Renato Zero il mese scorso, vi ricordate? Era uscito il primo volume di 070, questa opera monumentale con 3 album di inediti per festeggiare il 70° compleanno, e lui aveva detto uno al mese, e noi puntualmente lo torniamo a incontrare perché è uscito ieri 070 volume 2 con questo amore sublime. E intanto abbiamo chiesto a Renato un bilancio della prima uscita e di questo inizio, di questo progetto così grosso per i suoi 70 anni. Sono assolutamente soddisfatto, perché soprattutto della comprensione da parte del pubblico che questo lavoro è fatto con onestà, con grande passione, con la voglia proprio di raccontare, no? Ovviamente, insomma, Devo dire a Renato, hai avuto un grande coraggio a tirar fuori 3 CD in un momento così, diciamo, non propriamente ad hoc per fare un'operazione del genere, però io penso che è proprio in questi momenti che bisogna tirare fuori il nostro talento anche, no? Perché il talento è anche quello di andare contro certi presupposti, certe negatività. Io sono contento proprio che sia questa cosa mi abbia dato l'opportunità anche di misurarmi con il Covid, con questa realtà, e di aver realizzato questi 3 album con tutta la passione che questo preciso momento della mia vita necessitava di avere. Dicono che il meglio sia già stato scritto, che il presente è un soffio ed il futuro è incerto, che ogni storia è solamente un'opera della casualità. Simile ad un viaggio, che ogni cosa fugge ed è tutto di passaggio, e le emozioni forti con il tempo non si rivivranno più. Mi guardo nello specchio e vedo sempre quello sguardo di anni fa, e un'anima leggera sempre accesa mentre tutto se ne va. Senza tempo che noi chiamiamo eternità. Allora, io vi confesso che questo è il pezzo che preferisco di quest'album. Renato si è informato, voleva sapere se ci sono piaciuti i pezzi, e io gli ho detto la verità. Io in questo periodo sono talmente così emotivamente caricata da tutta la situazione che stiamo vivendo che mi commuovo sempre. Io di fronte a questa logica del tempo mi sono fatta certi pianti, e mi commuove questo pezzo, non chiedetemi perché, mi commuove moltissimo. La logica del tempo, da questo secondo volume di 070 di Renato Zero, che dice: io ci ho messo una cosa fondamentalmente, la sincerità. In questo progetto c'è Renato che in qualche modo, se casomai non l'avessi fatto prima, sotto la maschera, non quella clinica, ma la maschera quella dell'attore, dell'artista, e c'è questa insomma una verità che spesso ha fatto anche un pochino, mi ha fatto anche un soffrire a me che in qualche modo la raccontavano questa verità, perché i miei passaggi non sono sempre stati molto né prevedibili né forse compresi, perché sono stato spesso e volentieri da una immagine molto glamour, molto chiassosa, a un minimalismo spesso anche inquietante, se vogliamo, perché Spalle al muro voleva quella faccia da me, voleva quel contributo. Quindi io spesso mi sono anche dovuto, per ragioni anche di coerenza e di appagamento, ho dovuto accettare anche l'attore in me, ho dovuto dargli spazio e fare in modo che lui nelle varie occasioni e sfaccettature dimostrasse proprio di essere in qualche modo credibile, perché poi uscire dalla canzone non è sempre così facile, perché molte volte le canzoni hanno identificato gli artisti in maniera quasi definitiva, e questo non è sempre positivo, perché io non voglio essere crocifisso nel mio pentagramma, voglio avere la possibilità, come dici tu, di cambiare anche domani, di poter avere la facoltà di rivedere certe misure, certi contenuti, ma anche certe convinzioni delle volte possono vacillare e hanno bisogno di essere rilette. Vieni avanti, nostalgia, siedi pure accanto a me. Non ci frequentiamo mai, ma nei pensieri tu ti affacci quando vuoi. Poche le occasioni, sì, non si viaggia quasi più. Dentro questi panni noi prigionieri ormai della normalità. È stato come un film, un'avventura che ha macinato eroi. Protagonisti noi, contro figure mai. Grandi momenti, un altro brano da 070 di Renato Zero, in cui fa un po' i conti con la nostalgia. Ma Renato Zero è un uomo nostalgico? Guarda, io penso ai brasiliani, no? Che hanno inventato questa loro filosofia che chiamano saudade, che dovrebbe essere questa tristezza, che però è sublimata poi in bellezza, perché la tristezza, come la nostalgia, sono stagioni, proprio stagioni secondo me, perché la nostalgia è questo trasporto proprio anche un po' languido, secondo me hanno una volta che arrivano non va via, quindi la persona subisce un po' questa adozione, viene adottata, e devo dire che comunque se tu la nostalgia la recepisci rispetto a questa opportunità in fondo di rimandarti al passato, ma di avere ancora viva quella fotografia, di quel ricordo, di quell'atmosfera, cioè noi si vive anche perché quei momenti non girare pagina è comodo, ma potrebbe essere anche un po' negativo, perché le pagine devono rimanere tutte aperte, no? E deve essere un pochino la memoria a sventolarle, a renderle sempre in movimento, no? E quindi questa nostalgia e anche, se vuoi, la tristezza, per me fanno parte del bagaglio e sono compagne di viaggio e devono di diritto essere annoverate nei nostri momenti, da qui all'eternità. La mia carezza ti accompagni sempre, in ogni impresa io sarò presente, in ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima, ogni volta che ti servirà un abbraccio. La mia carezza per Virginia e Ada. Virginia e Ada sono le nipotine di Renato Zero, che è nonno. Questo è un altro dei pezzi di 070. Tanta vita. Lui dice che alla vita non ha chiesto niente, ha dato tanto ma non ha chiesto nulla. Ma ha ancora un sogno Renato Zero? Questo fatto ovviamente del nostro settore presenta comunque delle strane anomalie e delle considerazioni troppo leggere per gente che distribuisce sensazioni, magia, trasporto e anche cultura, soprattutto cultura, perché poi il mondo della musica, come il del teatro, come del cinema, sono universi, anche il balletto, o anche la musica colta, il melodramma, sono universi che ci aiutano a guarire da tante solitudini, da tante contrarietà, cioè non rispettare, non dare in qualche modo il giusto peso a questo universo. Credo che sia, non solo sia sbagliato, ma addirittura sia pericoloso, perché io ho scritto qui questa cosa: non ci sono vaccini per la solitudine e per la depressione, ma una canzone, una rappresentazione teatrale, un buon film, un'opera sinfonica, si dice che guariscano l'anima. Se noi vogliamo che la gente torni ad essere serena e affrontare qualunque avversità con una certa tempra, con una certa forza, dobbiamo rafforzargli lo spirito, e noi sappiamo fare quello, è il nostro mestiere quello. Radio Tube Social Village. E dopo tanta musica, questo incontro con Renato Zero, torniamo a parlare di serie TV. C'è un affare nuovo, grosso. Sono montagne di soldi, non l'avete mai visti. Ve lo posso far avere. A Roma arriva una fabbrica dei soldi che si chiama Giubileo. E chi ci mette le mani sopra diventa ricco sfondato. Noi ci manca un pezzo. A Roma Nord. C'ho bisogno di loro. Quello gli ha puntato una pistola alla testa, che devo fare? Spadino mi ha dato un sacco di cose buone. Per prima cosa mi ha dato il rispetto. E poi mi ha dato il potere. Ti pare poco a te? Quanto sei bella. I nuovi re di Roma! Le cose sono cambiate, ma come andiamo noi? È tornata Suburra. Terza e ultima stagione è online da ieri su Netflix. Si conclude l'epopea nata con un romanzo e poi un film e poi questa serie di grandissimo successo. Oggi abbiamo con noi due protagoniste, perché le donne hanno una grande importanza in questa terza stagione di Suburra. Carlotta Antonelli, Angelica, Federica Sabatini, cioè Nadia. Buongiorno ragazze, benvenute. Ciao, grazie a voi. Allora, splendide ragazze, posso chiedervi intanto com'è quando un'avventura così si conclude? Perché una serie che si conclude, una serie così amata, noi spettatori diciamo sempre: ah, rimarremo orfani, ci dispiacerà. Ma per due attrici, cioè, com'è? Lotti, più o meno è la stessa cosa, no? Ci dicevamo prima al telefono. Beh sì, ci siamo sentite esattamente orfane. Con la stagione, io per me è una stagione, ovviamente per Lotti, poi ve lo dirà meglio lei, sono state tutti e tre, per me due, e comunque in ogni stagione che finisce sapevi che c'era la prossima, adesso è finita e rimani un po' tipo: dov'è casa mia? Cioè, 3 anni sono veramente tanti, quindi è stato molto strano, è stato destabilizzante, però anche, cioè io sono super felice, triste ma anche molto felice. La stessa cosa, cioè ho una grandissima gioia e un grandissimo magone, quindi non so dove devo stare fra le due emozioni. C'è qualcosa di molto importante in questa stagione, c'è una maturazione vostra e del personaggio notevole. Allora sì, intanto è vero, c'è una maturazione assoluta. Per quanto riguarda me, posso dire che, come dicevo, ho iniziato questo percorso appunto un po' come la moglie di Spadino, a piccoli passi così, per poi terminare come Angelica. Federica, devo chiederti una cosa, una mia sensazione, e poi io non riesco a decodificarla del tutto, è che io tifo per la parità anche nel crimine, cioè sono contenta che le donne facciano carriera nel crimine, mi rendo conto che è una cosa sbagliata, cioè che non è bello, sì. Non dovrei, però alla fine tifo. Ok, ok, allora no, su questo io, va bene, sono assolutamente una persona contro la violenza, e già questo fa ridere perché poi mi ritrovo a fare personaggi come quello di Nadia in Suburra. Però sicuramente una cosa che è veramente molto interessante è lo spazio dato a delle donne al potere, che siamo probabilmente a livello sociale anche abbastanza agli inizi, però io vedo intorno a me, soprattutto su tante produzioni Netflix, sempre di più questo ampliarsi di storia femminile in posizioni che prima vedevi solo per gli uomini, quindi si è fatto più spazio in un mondo che, dove prima il contesto della donna non era incluso, comunque se era incluso era sempre solo la moglie di, come poi abbiamo iniziato noi, no? Come dicevamo prima. Carlotta, tu hai anche avuto l'onere e anche in un certo senso immagino il piacere di avvicinarti anche a una cultura diversa, scoprire una cultura diversa, raccontare una lingua diversa, una cultura diversa. Che cosa ne dici? Cos'è stato per te questo? Beh, è stato pazzesco, nel senso è una cultura incredibile e non penso che nella mia vita mi sarei mai avvicinata a questa cultura se non grazie a Suburra. È una cultura che comunque non ti lascia entrare proprio facilmente, nel senso è una cultura fatta anche di segreti, è una cultura fatta di cose che sono molto gelosi della loro cultura, i sinti. Devo dire che per me è stato incredibile, appunto già dalla prima stagione quando li ho conosciuti e sono entrata a girare tutte le scene nella famiglia, ero molto affascinata da tantissime cose loro e poi ho avuto anche la possibilità nella terza stagione, un po' di più rispetto alle altre due, ma anche sempre poco, di studiarmi delle battute in sinti, che comunque è stato bellissimo. Bellissimo, è una cosa che avevo chiesto anche io al regista, di voler fare di più rispetto alle altre due stagioni, perché ci tenevo, volevo conoscere ancora di più, volevo cercare di farne molta più parte, anche se poi il mio personaggio viene raccontato come, diciamo, una sinti un po' più moderna che si stacca anche da un linguaggio e da altre cose, però comunque mi sono sentita molto parte di questa cosa e sono rimasta molto affascinata. Quindi bellissimo. Qualche esponente della comunità sinti ti ha detto seri credibile, seri giusta per il ruolo? Allora, in realtà questo non me l'hanno mai detto, nel senso che non c'è stata questa cosa, però mi dicevano che riuscivo a parlare bene, insomma a dire bene quello che dovevo dire. Poi comunque passavo molto tempo anche a giocare con le bambine, per esempio, perché volevo scoprire qualcosa, non so cosa, però volevo entrarmi proprio dentro. E poi vabbè, devo dire che invece gente dall'esterno mi ha fatto molto ridere, mi ha chiesto se io fossi una zingara veramente. Questa cosa mi ha fatto ridere, però ho anche detto vabbè, meno male perché... Vabbè, vuol dire che la credibilità c'era. Si è detto tanto nella conferenza stampa di qualche giorno fa, in tanti vi hanno chiesto, però sarebbe bello pensare a uno spin-off, a un seguito inscritto in un altro modo, una serie separata, anche magari così al femminile. Voi ci stareste? Vi farebbe piacere? Sarebbe pazzesco. Sarebbe stupendo. Sarebbe bellissimo. Sì, sì, è un piccolo sogno che ci siamo anche, insomma, raccontate fra di noi, ne abbiamo parlato, non veramente speranzosi perché poi non sappiamo, cioè comunque per tutti questa è la stagione finale, però visto che comunque noi facciamo un lavoro che è molto legato ai sogni, sia per il tipo di lavoro sia per le storie che raccontiamo, perché no, a noi ci piace sognare, ci piacerebbe poi trasformarlo in realtà, saremmo molto contente. Ma Thelma e Louise, scansatevi, basta! Ancora questi esempi degli anni 90 superati, che ci vogliono nuove coppie femminili che spacchino lo schermo, voi siete pazzesche, siete state Grazie. Veramente brave, poi è stato bello vedervi crescere. Grazie. E, poi vabbè, io personalmente ve lo posso dire perché io avevo presentato la conferenza stampa a Roma 2 anni fa e quindi vi avevo visto piccine, adesso siete diventate due attrici mica male. Grazie ragazze di essere state con noi, con me, e vi auguro un in bocca al lupo. Poi davvero, noi pensiamo forte ai sogni che poi magari si realizzano. Io ci credo, io proprio incrocio tutto. Grazie ragazze, grazie mille. Grazie a te, grazie a tutti voi.